ce ne parlano Rosalia Pisciotta e Mariannina Giuliano, sorella di Salvatore. Sparò, ma subito. Mio fratello non aveva la minima intenzione di uccidere quel carabiniere. Mentre che corria, scappava, ci cariva giacca. La giacca c'era la tessera, perché non c'era la tessera. Perciò Ido dice, la giacca si ha pigliato, la tessera è da rincia, io rincia non ci vengo. Da allora in poi Ido io poi, a Monreale chi gli ha scacciato, chi è a Monreale. Oh, si dice la banda, e è successo questo. Una volta liberi, i Picciotti raggiungono Salvatore Giuliano per formare il primo nucleo della banda e sulle montagne li raggiunge anche Gaspare Pisciotta, tornato dalla prigionia in Germania. Diventerà il braccio destro del bandito Giuliano. Furti di bestiame, rapine, sequestri, ricatti, omicidi. È questa l'attività della banda Giuliano. Ma l'attività anche di tutte le altre bande che in quegli anni infestano le montagne di tutta la Sicilia. A guidarle sono uomini spietati, ma perfino qualche donna. In poco tempo, tuttavia, le forze dell'ordine riescono a sgominarle quasi tutte, tranne quella di Salvatore Giuliano. La banda di Giuliano controlla un vasto territorio intorno a Montelepre. È il suo regno. E tra quelle montagne, il re di Montelepre appare imprendibile. Mix 24. La storia. Bentornati a Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia di Salvatore Giuliano e del suo braccio destro Gaspare Pisciotta. Imprendibili, ben nascosti sulle montagne intorno a Montelepre, rafforzano la banda e continuano la loro ascesa criminale. Intanto, giù a valle, nei latifondi dei grandi proprietari terrieri, comincia uno scontro durissimo. Da Roma il governo vuole abolire la mezzadria. Ma quando i contadini occupano le terre, i proprietari non ci stanno. Pur di non rinunciare ai loro privilegi, sono disposti anche a usare il braccio armato della mafia contro i contadini affamati, come sostiene lo storico Salvatore Lupo. E lì, la zona intorno a Portella, soprattutto i piani degli Albanesi, sono zone attraversate da un'antica tradizione rossa di lotte per la terra. E quindi mafia e movimento contadino si pongono fin dai tempi dei fasci siciliani, cioè dalla fine dell'Ottocento, come due entità tra di loro contrapposte. A guidare le occupazioni di quelle terre c'è anche Emanuele Macaluso, all'epoca giovane sindacalista, poi dirigente del Partito Comunista. Ce ne parla così. Ci furono grandi partecipazioni di contadini, di donne, di ragazzi, di preti, con le bandiere rosse, con le bandiere bianche. Cioè fu un movimento di popolo straordinario, con scontri molto duri, violenti. 16 settembre 1944. La mafia è sfidata a viso aperto. Compagni! È durante un comizio che Girolamo Licausi, segretario del Partito Comunista in Sicilia, per la prima volta parla ai contadini dei loro diritti e lo fa in presenza del capo mafia di allora, Calogero Vizzini. A ricordarlo Emanuele Macaluso, che era al fianco di Licausi. Io nel 44 accompagnai Licausi a Villalba per fare un comizio dove non si poteva parlare perché c'era Calogero Vizzini, e per la prima volta la mafia sparò. È ferita la gamba! Montarono le bombe, spararono con le pistole. Licausi fu ferito a un ginocchio e restò claudicante per tutta la vita. Contro i comizi e le manifestazioni del movimento contadino, la mafia non usa mezze misure. Quella protesta va stroncata e tra le vittime si contano decine di sindacalisti e di contadini. Ma quelle sono anche le terre in cui si muove la banda di Salvatore Giuliano, e quella è la sua gente che guarda lui con la speranza di un riscatto. Agli occhi di molti, Giuliano assume il ruolo di un giustiziere, un nemico dei ricchi che protegge i poveri. È il mito di Salvatore Giuliano. La fama del bandito Giuliano, giustiziere, nemico dei superbi e protettore degli umili, dilaga rapidamente. Molti siciliani, non avendo nient'altro a cui credere, guardano a lui con speranza. Incarna lo spirito ribelle dell'isola. A parlarcene Emanuele Macaluso e Giuseppe Sciortino, nipote di Salvatore Giuliano. Lo consideravano una vittima prima,

questi separatisti. Nel Levis, l'esercito volontario per l'indipendenza della Sicilia, Giuliano vede la possibilità del suo riscatto e dell'impunità per i crimini commessi. Nel quartier generale di Giuliano, a Sagana, alcuni separatisti si recano dal bandito per offrirgli il grado di colonnello, la bandiera di combattimento del Levis e la promessa di amnistia a vittoria separatista avvenuta. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24, quella che stiamo raccontando oggi è la storia di Salvatore Giuliano, un bandito non comune, una sorta di terrorista ante litteram, un guerrigliero che agisce sotto la bandiera politica del separatismo. Il suo compito è seminare terrore tra le forze dell'ordine e il suo bersaglio privilegiato diventano i carabinieri. A parlarcene la sorella di Salvatore Giuliano, Mariannina. Se ci sono state perdite di carabinieri è stato semplicemente nella lotta del separatismo, perché giustamente è stata una guerra. Anche da parte di mio fratello ci sono state perdite di uomini. Quindi lei mi insegna che quando c'è una guerra le perdite sono da una parte e l'altra, ma sempre a scopo politico. Mentre Giuliano rimane un bandito latitante, in Italia le cose cambiano rapidamente. E il 4 gennaio 1947 il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi si reca in America per un incontro con il presidente Harry Truman. Un viaggio fondamentale. De Gasperi riceve un assegno per la ricostruzione in cambio di un impegno a combattere il comunismo. Qualche mese dopo, De Gasperi forma un nuovo governo. Per la prima volta dalla liberazione ne sono esclusi comunisti e socialisti. Ma il 20 aprile del 47 in Sicilia il blocco del popolo formato da comunisti e socialisti vince a sorpresa le elezioni regionali. Quella delle sinistre, insomma, è una vittoria relativa che costringe la Democrazia Cristiana ad allearsi con la destra monarchica, qualunquista e separatista. E qui forse c'è il primo indizio per capire meglio la strage di Portella della Ginestra. Una volta ancora, infatti, la storia politica della Sicilia si incrocia con le vicende della banda Giuliano. Gli stessi che prima lo avevano assoldato per la causa separatista, ora lo assoldano per la lotta contro il comunismo. Per questa nuova battaglia c'è bisogno di un'azione dimostrativa. L'occasione si presenta 10 giorni dopo la vittoria del blocco del popolo. È il 1° maggio del 1947, tutti si danno appuntamento nella piana di Portella della Ginestra per la festa del lavoro. A raccontarlo i testimoni di allora. Domani, 1° maggio, andiamo a sparare a Portella della Ginestra contro i comunisti. E per chi? Non lo saggio, disse che è arrivato per noi un giorno della liberazione. Chi sto intesi dire e chi sto te dico? Ogni anno venivano qui tutti i lavoratori di Piana, San Giuseppe, San Cipirello a festeggiare questo 1° maggio. Io allora, al 47, avevo 22 anni, era sempre assieme, diciamo così, ai nostri dirigenti, alle nostre bandiere, e siamo venuti qua per festeggiare sempre come queste tradizioni che festeggiavamo. Quell'anno sfortunato che è stato per noi è stato sfortunato per tutti, e non avevamo niente da mangiare. E la mamma ci faceva il rosario, dice, ci dobbiamo andare perché devono fare una festa grande. Dice, Margherita, dice, ma dov'è che dobbiamo andare? Dice, non abbiamo niente. Dice, non fa niente. Quella mattina io ero arrivato, ero lì vicino a quella pietra, a un 15 metri dal sasso di Barbado. Ero con un mio amico che si chiamava Serafino Lascari, che è morto lui. Mi è morto così. Compagni, amici lavoratori, ogni 1° maggio! Mentre che parlava il lavoratore ha detto le prime frasi che mi ricordo. Compagni e compagni lavoratori del braccio e della mente, oggi siamo qui per festeggiare questo 1° maggio. Questa è stata una grande prima vittoria e questa vergogna del sovietismo. Perché a causa della nostra ignoranza noi siamo processi politici. Ha cominciato a sparare, ma noi non è che sapevamo che stavano sparando, noi sapevamo che era festa. Verso le 10:30 è stata la strage. Imparino a prendere! Adesso, i primi colpi, a mia sorella anche. E tutti gridavano, dice, Non piangete, non gridate che è l'augurio della festa. Ma che festa? Che la mamma... Io mi sono girata, ho visto la mamma che ha messo la mano così e ci ho detto, mamma, che cosa hai? Lei non ha detto una parola, soltanto che mi ha guardato così, ci cadono le lacrime e fa così. E incominciavo a scappare. Scappare, io invece di scappare verso giù sono scappato verso qua perché avevo mio padre che era un dirigente, l'ho visto che era sopra la pietra. Quindi correvo per mio padre. Ma non l'ho visto più, in quei attimi già non l'ho visto più nessuno. Mi giro, come mi giro, lì trovo due donne a terra. Però non l'ho visto, non sapevo se erano morte o vive, perché poi ho saputo che una era morta, l'altra era ferita, che erano madre e figlia. Ma là vicino c'era il cavallo della Cleceri. La Cleceri avevano un cavallo, questa che è morta. Era pure ferito. E ci usciva sangue dalla bocca e gridava, ma le gridate che faceva. Gli dico, mentre che era là, arriva il padre e il figlio dice, papà, dice, il cavallo, dice, lascia stare il cavallo, dice, e la madre è morta, dice, lascia stare. Una madre che si chiama Sarafina Piazza, che ci hanno ammazzato il figlio e scendeva durante il tragitto di qua a Piana con il figlio morto nelle braccia come la Madonna. C'erano quelli che sparavano, io li vedevo, erano in cinque, quelli che vedevo io erano in cinque, perché guardando di qua poi ho visto mio padre che era cacciato nella scarpata della strada lì. E continuavano ancora a sparare, si vedeva pallottole che arrivavano là vicino, che c'era un po' di polvere. Dopodiché, quando hanno finito di sparare, siamo messi a correre verso giù e lì c'erano dei feriti, tanti feriti. Doveva essere una festa, invece si è trasformata in una tragedia. Sul terreno rimangono 12 morti e più di 30 feriti, molti dei quali donne e bambini. Ma chi erano quei cinque uomini che il testimone ha visto sparare dall'alto della collina? E perché hanno sparato? E poi, erano solo cinque o ce n'erano anche altri? Due giorni dopo la strage di Portella della Ginestra, il ministro dell'Interno, Mario Scelba, rilascia la prima dichiarazione ufficiale. Questo non è un delitto politico. E non può essere un delitto politico perché nessuna organizzazione politica potrebbe rivendicare a sé la manifestazione e la sua organizzazione. Dire che non è un delitto politico significa anche collocarlo in un contesto limitativo e limitante, perché invece è un delitto politico, ha tutte le caratteristiche del delitto politico. E se vogliamo fare una distinzione, è molto più un delitto politico che un delitto di mafia, per il suo carattere eclatante, no? È un episodio di terrorismo politico. Avete sentito lo storico Salvatore Lupo. Gli esecutori vengono individuati da quattro cacciatori che il primo maggio del 47 erano sulle montagne di Portella della Ginestra per una partita di caccia. I quattro cacciatori dichiarano di essere stati disarmati e sequestrati da un gruppo di uomini che poi si sono messi a sparare sulla folla. Tra loro hanno riconosciuto l'uomo con l'impermeabile bianco e il binocolo al collo. È Salvatore Giuliano. Sono molti i depistaggi e le omissioni sui mandanti, ma i testimoni oculari non hanno dubbi. Salvatore Giuliano e la sua banda erano a Portella della Ginestra e hanno sparato. Ma perché lo hanno fatto? Su ordine di chi? Ma ora la priorità, il nemico pubblico numero uno è lui, Salvatore Giuliano, un bandito ben protetto dalla sua gente, ben nascosto tra le montagne che nessuno sembra in grado di trovare. Eppure, a una sola settimana dalla strage, un giornalista americano beffa le forze dell'ordine e riesce a incontrare il bandito. Il suo nome è Mike Stern. Sentiamolo. Leggevo il Messaggero e c'era un articolo su un bandito. Non avevo nessuna idea di che cosa era vero nel Messaggero. Stern decide di partire. Arrivato a Palermo l'8 maggio del 47, si reca subito in questura. Sentiamolo. Io chiedevo in quale casa vive Giuliano, mai sentito, nessuno sapeva niente. Ma un uomo sui 60 di piccola statura e tarchiato si presenta a Mike Stern. E questo era il padre di Giuliano,